A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Malik Yawm al-Din. Malik Yawm al-Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim walad Dallin. Sirata alladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. 20 luglio. L'uomo è qualcosa che deve essere superato. Per questo devi amare le tue virtù, perché perirai per causa loro. Sia benedetto il suo grande nome, per sempre e in eterno. Benedetto. E sia lodato. Glorificato. Innalzato. Esaltato. Elevato e celebrato. Il nome del Santo Benedetto. Il nome del Santo Benedetto. Il nome del Santo Benedetto. Il nome del Santo Benedetto. Sono in metropolitana. Sono le 9 del mattino. E la gente preme su di me, sul mio corpo. Preme sul mio zainetto, ignara di ciò che contiene. Sembro uno studente come tanti altri. Sembro un bravo ragazzo. Questa gente ti sta talmente addosso che puoi quasi sentirne i pensieri. Questa gente ti sta talmente addosso che puoi quasi sentirne i pensieri. Casa. Cazzo. Caos. Cade la bomba. Calcio. Calma. Tactus. Cade la bomba. Sudo. Sento le gocce di sudore che scorrono dalla fronte. Si infilano nel collo, assorbite dalla felpa. Mi rigiro fra le mani l'interruttore della luce. Attento a non farlo vedere. Attento a non premerlo. Ancora. Caldo. Cancro. Cade la bomba. Prossima fermata Repubblica. Next stop Repubblica. Caffè. Cario. Cade la bomba. Sento il filo elettrico a contatto con la pelle. Sotto la manica della felpa. Capo. Carta. Cane. Cade. Cade. Cade. Cade. Apertura porte lato destro. Doors open on the right. Canto. Carta. Cactus. Cade. Cade la bomba. Sposto il pollice sopra l'interruttore della luce. Ancora un secondo. Ancora un secondo. Ancora un secondo e tutto sarà finito. E per un secondo, per quest'ultimo secondo, non sai se riuscirai davvero a farlo. Attraverso le porte aperte non vedi la banchina della stazione. Non vedi la gente che si accalca per entrare. Non vedi i passeggeri che spingono per uscire. Vedi solo un bosco. È l'alba e la prima luce del sole penetra tra le foglie. Tra i tronchi, tra i rami, tra le foglie. Tutto brilla. Tutto brilla. Tutto brilla. Tutto brilla. Buio. Chi sei tu? Chi sei tu? Chi sei tu? Diventa ciò che sei. Diventa ciò che sei. Diventa ciò che sei. Diventa ciò che sei. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walhamdulillah rabbil alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawm al-Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Dallin. 19 luglio, la notte prima. In verità, chi non vive al momento giusto, come potrebbe morire al momento giusto? Karen è seduto per terra con cacciavite e forbici. Unisce con un filo elettrico peso per batteria a interruttore di lampada. Controllo che tutto bene fa. Io e Ibrahim indossiamo camici, mascherine, guanti di lattice. Apriamo le buste di ghiaccio di quello finto e guardammo tutto da YouTube. Dalle buste mettiamo sul tavolo il cristallo di ammoniaca e buttiamo via il resto. Rafik, tutto questo è anche per tua moglie. Non si può morire così giovane per nulla. Farida mia, andata via a 20 anni il giorno che eri più bella. Ma non si chiamava Jamila? No, si chiamava Farida. Karim, finisci con i fili e ci raggiungi. Insieme filtriamo in un imbuto con poca acqua i cristalli di ammoniaca. Poi prendiamo i fuochi d'artificio, li apriamo e rovesciamo la polvere da sparo sopra il tavolo. Karim, grosso tubo di plastica con fondo tappato prende e dentro ci mette i cristalli di ammoniaca. Ibrahim, rovescia benzina da tanica sopra i cristalli dentro al tubo. Poi passa la polvere a Karim, che la mette sopra i cristalli bagnati di benzina. Con un cacciavite facciamo buco in tappo di tubo e chiudiamo la bomba. Karim prende cavo elettrico, quello di interruttore e batteria. Un filo è scoperto. Karim infila il filo scoperto in buco di bomba. Teniamo ferma bomba per non farla agitare. E nel zaino la infiliamo. La batteria va messa solo all'ultimo momento. Quando c'è batteria, per sicurezza, si preme il pulsante che fa scintilla. Scintilla fa esplodere la polvere da sparo che fa esplodere la bomba. Basta premere il pulsante. Chi va? Tiriamo sorte. Sì, ma io meglio non vado. Perché? Se faccio io attentato, tutti diranno quello è il terrorista straniero venuto qui chissà come. Se fate voi, attentato è tutto diverso. Attentato fatto da italiani spaventa di più, fa pensare di più. Avranno paura. È vero. Allora, pari o dispari, chi vince va? Pari. 7. Ho vinto io. Karim, Allah è con te. No, Rafik, voglio andare io. Sono stato chiamato. È tanto che sono stato chiamato, lo so, lasciate andare me. Sei sicuro? Sei pronto a rinascere, ad abbandonare il mondo per entrare in paradiso? Sono pronto, inshallah. Allah ti proteggerà. Rafik mi abbraccia. Sei coraggioso, non hai paura. Anche Karim mi abbraccia. No, non ho paura. Non ci diciamo più niente, perché sappiamo che non ci rivedremo mai più. Ora andate! Cammino avanti e indietro per la stanza. Non riesco a calmarmi. Mi fermo di colpo, srotolo il tappeto per la preghiera, mi tolgo le scarpe e mi metto in direzione della Qibla con le mani alzate accanto alle orecchie. Prego, in silenzio. Ma interrompo la preghiera, sono nervosissimo. Cammino, mi fermo di colpo, respiro. Spengo la luce e chiudo gli occhi. Hai paura, hai paura, hai paura. E nonostante gli occhi chiusi vedi lampi gialli e macchie viola. Ma è soltanto l'eco della luce che ti tinge ancora le palpebre. Presto sparirà. Come la paura, come la paura, come la paura. 2 luglio, 18 giorni prima della bomba. Alla fine, tutte le tue passioni diventarono virtù e tutti i tuoi demoni, angeli. in bagno, in mutande. Mi taglio la barba. E il mio volto torna a essere liscio, nudo. Non mi rimetto il tuab e lo nascondo fra i panni sporchi. Mi infilo jeans e maglietta grigia. Ora sono un ragazzo qualunque. Questo sei tu? Questo sei tu. Sei davvero tu? Tu sei il tuo corpo. Tu sei oltre il tuo corpo. Tu sei qui, nudo, senza identità. Il tuo volto è quello di sempre, ma non è più lo stesso. Tu sei oltre. E questo quello che volevi. Quello che hai sempre voluto. Tornare al corpo in cui sei nato. Tornare al corpo in cui sei nato. Ibrahim! Ibrahim! Ci sei? Per favore, Ibrahim, se ci sei, apri la porta. È tanto che non ci vediamo, voglio solo sapere come stai. Vattene, Ahmed, non ho tempo adesso. Scusami per l'altro giorno, mi dispiace davvero. Però ora dobbiamo parlare, io e te. Parliamo un'altra volta. Sono 5 minuti. Non di più, sono 5 minuti... Ti prego! Sei contento ora? Ibo, cosa vuoi fare? Non ti riguarda. Cosa vuol farti fare, Karim? Karim non vuol farmi fare niente. Ibo, guardami. Guardami! Fidati di me. Non è questa la strada. Non è l'odio la strada. Non è la violenza, non è la divisione. La strada non sono le bombe. Smettila. Non è questa la strada per tornare ad Allah. Ora vattene. Ibo, da morti, abbiamo tutti lo stesso cattivo odore. Vattene! Ibrahim! Davide, hai tolto il tuo app. Cos'è successo? Ciao, mamma. Avevi ragione. E ti chiedo scusa. L'Islam era solo una fase passeggera. Da oggi torna a essere Davide. Sì, sì. E avevi ragione anche sull'università. Ricomincio a studiare. E magari mi trovo anche un lavoro. Non ti devi preoccupare. Andrà tutto a posto. Si sistemerà tutto. Abbracciala. Stringila forte. Lasciati andare al suo calore, al suo odore, al contatto con la sua pelle. Perché lo sai. Ora lo sai. Sai che non abbraccerai più tua madre. Giorni prima della bomba. Ognuna delle tue virtù vuole tutta la tua forza nell'ira, nell'odio e nell'amore. Stai solo perdendo tempo, non te ne rendi conto. Cosa vuoi fare della tua vita? Cosa vuoi diventare? Guardami, guardami. Tutto questo non ha a che fare con la religione, mi capisci? Davide, Davide, tu puoi credere in quello che ti pare, puoi sceglierti il Dio che preferisci, ma non puoi continuare a non fare niente. È quasi un anno che va avanti così. Non devi fumare davanti a me! Questa è casa mia e fumo, bevo, ascolto musica quanto mi pare, chiaro? E nel caso sono io a dirti di tagliarti questa barba e toglierti questi vestiti d'arbo, che sei ridicolo. Pensa piuttosto a riprendere a studiare, oppure ti trovi un lavoro. Ma che cosa serve studiare all'università? Dai, dimmelo! Ma che cosa serve lavorare? E poi lavorare per chi? Lavorare per arricchire chi? Per diventare un numero, un ingranaggio? No, grazie, io in questo mondo non ci voglio entrare. E in quale mondo vorresti entrare, eh? Tu vivi in questo mondo qui. Il mondo in cui vivo mi fa schifo. Il tuo mondo mi fa schifo, come fai a non capirlo? Perché continui a parlarmi di lavoro, di studio, quando ogni giorno ci sono bambini che muoiono, bombe chimiche sulla popolazione, migliaia di civili che muoiono perché dall'altra parte del mondo qualcuno schiaccia un pulsante e parte un drone? Non li voglio sentire questi discorsi. È un nuovo olocausto, è una nuova Shoah. E il Medio Oriente è un gigantesco campo di sterminio. E l'Occidente è come la Germania nazista. Ma tutto questo può essere fermato grazie alla Sharia. Inshallah. Ma tu lo sai davvero che cos'è la Sharia? Che cos'è la tua legge di Dio? Non capisci che qualunque cosa si allontani dalle libertà personali, dai diritti umani, non può trovare posto nella società occidentale? Ma chi ti ha fatto questi discorsi? Chi ti ha fatto il lavaggio del cervello? Nessuno. Gade, come puoi non vedere l'orrore? L'orrore degli attentati in nome di una religione, l'orrore dei genocidi in nome di Dio. Niente, è sbagliato. Si è fatto nel nome di Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ma tu lo sai che cosa stai dicendo? Questa tua religione nasconde solo una dittatura. La dittatura di Allah sull'uomo. Tu sei solo una kafir, una sporca infedele. E non permetterti di parlare così di Allah. Rimaniamo seduti in terra, con il peso sul tallone sinistro, il piede destro sulla pianta dell'altro piede, la mano destra chiusa a pugno, poggiata sul ginocchio, con l'indice che indica la Qibla. Voltiamo la testa a destra, poi a sinistra. La preghiera è finita. Ora possiamo rompere il digiuno, ma non abbiamo fretta. Rimaniamo seduti a gambe incrociate. Respiriamo, in silenzio. Rafik prende un vassoio con un grande piatto da portata coperto, una ciotola con 9 datteri, una caraffa d'acqua e 3 tazze di zuppa. Ci porge i datteri. Periamo Ramadan per te? Mm-hmm. Difficili? Sì, ma ce la farò, inshallah. Rafik toglie il coperchio dal piatto di riso. E io prendo le mie pillole. Che cosa prendi? Niente. Abu Mahdi mi ha mandato un nuovo messaggio su Skype. Quando? Ieri. Dice che dobbiamo prendere un aereo per l'Olanda. Dice che il volo deve essere di andata e ritorno. Dice che da lì partiamo per la Turchia. Dice che il volo deve essere sempre di andata e ritorno. Dice che a Istanbul prendiamo un aereo per Urfa. Dice che dobbiamo pagarlo in contanti. Dice che ci manda qualcuno per passare il confine. Dice che è facile. Dice che decine di europei lo fanno ogni giorno. E quindi è questo. È questa la chiamata. È questa la tua via per cambiare il mondo. Per non arrenderti. È davvero questo quello che sei? Quello che sei destinato a fare? Quello per cui sei nato? Tutto porta qui. Tutto finisce qui. È questo. Cos'hai? Non sei convinto? Non lo so. Ibrahim, la vita in Occidente è solo sopravvivenza. Noi non dobbiamo combattere per vivere. Noi dobbiamo vivere per combattere. Un attimo. Ci sono tante strade per il paradiso e non tutti passano per la Siria. Non fate cose di fretta. Non è una cosa di fretta. Forse non c'è necessario partire. Qui anche come lì di noi c'è bisogno. Qui tanto c'è da fare per lo jihad e Abu Mahdi è d'accordo. Ma come si può fare il jihad da qui? No, come già fatto in Francia, in Belgio. Colpire l'Occidente in casa. Esatto. L'Occidente punito con il martirio. È così. Tutti i kuffar devono tremare. Gli occidentali non devono più stare al sicuro. Tutti devono capire che le loro ideologie sono finite. Comunismo è morto. Capitalismo sta morendo. Solo Islam rimane. Karim. Karim! Questa cosa di portare la guerra qui, io non lo so. Cosa? Se parto per la Siria posso essere utile, posso aiutare i miei fratelli, ma portare la guerra qui è un'altra cosa. È una cosa che mi fa paura. Siamo in guerra, Ibrahim. E la guerra è ovunque. È lì. È qui. I nostri nemici sono qui. Ti va un'altra birretta? Sì, ma questa la pago io. Davide? Davide, sei tu? Davide, ma che hai fatto? Ma come vai in giro? Guarda che Halloween è passato da un pezzo, eh. Davide, davvero, perché ti sei vestito così? Cos'è successo? Ma col vestito in dotazione ti danno anche l'esplosivo. Quando ti sei convertito? Vabbè, dai, siamo cresciuti insieme. Vabbè, dai, tutti cambiamo, ma non c'è bisogno di fare così. Forse è solo il momento sbagliato. È tardi, siamo stanchi, però chiamaci ogni tanto che ci facciamo una birretta. La birra mi sa che non la beve più. Ok, allora una pizza. Sono tornato da là. Mi sono convertito. Sono tornato ad Allah, si dice così. Siamo tutti creature di Allah. Anche tu, Luca. Anche tu, Chiara. Anche voi, kuffar, voi miscredenti. Voi non potete capire. Io non mi chiamo più Davide. Io non sono più quello che ero prima. Ma tanto è inutile parlare con voi. Vabbè, dai, Davide, siamo sempre amici, no? Ma perché mi saluti con la sinistra? Guardali quelli che erano i tuoi amici. Ora sono i tuoi nemici. È questo quello che pensi. È questo quello che senti. I tuoi nemici sono qui. La destra è la mano pulita, quella che serve per mangiare. La sinistra serve per pulirsi. Posso dare la mano pulita sulla gente pulita. Mi hai dato la mano con cui ti pulisci il culo. Giorni prima della bomba. Un tempo avevi le tue passioni e le chiamavi cattive. Ora hai solo le tue virtù. Sono nate dalle tue passioni. Da chi mi stai portando? Ora lo vedrai. Allah ha incrociato le nostre strade finalmente. Prego, prego, benvenuti, benvenuti. Shukran. Io non parlo arabo, solo per pregare. Di dove sei? Afghanistan. Allora, chi di voi due è l'amico di Abu Mahdi? Io. Sì, Karim. Bene, Abu Mahdi dice molto belle parole su di te. Chi è Abu Mahdi? Uno che sta in Siria. Ci chatto su Skype. Non mi avevi detto niente. Non era ancora tempo. Abu Mahdi dice, tua mente è molto aperta. Anche la sua. Tu sei Ibrahim? Sì. Bene. Bene. Quando hai sentito Abu Mahdi per l'ultima volta? L'altro ieri. Che cosa ti ha detto? Che dovevo venire da te. E poi? Poi? E poi mi ha parlato dell'Occidente. Dice che gli europei pensano che l'Islam è il Medioevo e non si accorgono che nel Medioevo ci sono loro. Noi occidentali siamo tutti schiavi. Schiavi! Della tecnologia e del consumismo. Schiavi di un potere assoluto che non ci fa più pensare. Che nell'ignoranza di Allah vive l'Europa. Qui egoismo, consumismo, tutto distrugge l'uomo. Come merce lo fanno diventare. Come merce dei centri commerciali. Come merce scaduta dei supermercati. Tutto cibo che nessuno mangia e via viene buttato. Siamo come merce scaduta. Sì. E i vermi nell'uomo si formano come muffa, come qualcosa che è già morta. Non possiamo rimanere a guardare. Non possiamo rimanere a guardare. No. Non possiamo rimanere a guardare. E che cosa vorresti fare? Qualcosa per far capire ai kuffar che sbagliano. Qualcosa per punire l'Occidente. Qualcosa di importante. Tu no? Non lo so. Se tu pensi quanto di mio paese ha fatto male democrazia occidentale, allora capisci che democrazia occidentale è vero male, è solo finzione. Quanti morti di mio paese per democrazia, lo sai? No, non ne ho idea. Bombe chimiche, raid, droni. Quanti morti innocenti hanno fatto? Chi ce lo può dire? Milioni di vittime per che cosa? Per quello che qui chiamate democrazia e che mai è esistita. Quanti morti in Afghanistan? Quanti morti in Pakistan? Uno milione e 300.000 morti civili solo in Iraq in 13 anni di guerra. Questo è il nuovo olocausto. Questo è quello che gli ebrei chiamano Shoah, stessi morti di Auschwitz. L'Iraq come un grande campo di concentramento. Sì, un campo in cui tutti siamo stati, in cui tutti abbiamo avuto i morti. Shamila, la mia signora, poco tempo ha avuto per essere moglie a me. Poche ore, durante la festa di nozze, è morta per bomba americana. Bomba su nostra festa. Tanti morti. Mi dispiace. Quanti anni aveva? 17. Sono 4 anni ora. Qui stessa cosa succede tutti i giorni. Ma noi non siamo ebrei. Noi non rimaniamo passivi come ebrei con nazisti. È tutta propaganda. Tu non ti rendi conto. Ma di che cosa? Del fatto che stai fuori di testa. Te l'ha fatto fare Karim quel video, vero? Ivo, dammi retta. Quello è meglio se lo lasci perdere. Ma se tu nemmeno lo conosci. Lo conosco. È da 2 anni che viene in moschea. E lo sanno tutti che sta sotto psicofarmaci. Dovresti ascoltarlo prima di giudicare. Con certa gente io non voglio averci niente a che fare. Certo, perché non ti piacciono le regole. Ma recitare 5 preghiere al giorno e rispettare il Ramadan non significa essere un buon musulmano. Ti sei convertito da 5 mesi e già parli come un imam. L'Islam è una religione d'amore, non di odio. I valori dell'Islam non sono quelli di un integralista fuori di testa. Sì, l'Islam è solo amore. Amore per i popoli perseguitati, amore per gli oppressi, amore per Allah. E io in nome di questo amore sono disposto a fare tutto. Sei disposto a fare tutto? E chi te li ha fatti questi discorsi, eh? Karim te li ha fatti? Eh? È lui che ti ha convinto a metterti il tuo hab? È lui che ti ha detto che devi farti crescere la barba, è vero? Cosa vuoi fare? Vuoi andare in Siria adesso? Non ti riguarda. Ma che ne sai tu del Medio Oriente? Cosa ne sai della Siria? So quello che devo sapere. Tutte quelle chiacchiere sulla Ummah, sulla fratellanza, sulla Sharia. Sono solo propaganda, Ivo. Chi lo compra il petrolio dello Stato Islamico? Eh? Chi lo compra? $1 milione al giorno. Chi lo compra? L'Occidente lo compra. Lo Stato Islamico è solo una corporation, come la Coca-Cola. Esiste perché fa comodo all'Occidente. No, non è vero. Ivo, è solo una questione di soldi. Non lo capisci? Ci sono dei terroristi? Bombardiamoli. Così vendiamo più armi e siamo anche giustificati a usarle. E chi se ne frega se facciamo migliaia di vittime civili? Ci sono dei terroristi? Così il petrolio costa anche meno e risparmiamo. E ci sono i terroristi? Non lo capisci che se tu vai in Siria Tu vai a combattere per l'Occidente. No, no. Tu non sai quello che dici. Chi parte per la Siria va a combattere per tutti i fratelli musulmani. Ma quali? Quali fratelli musulmani, eh? Ma tu lo sai quanti sciiti, quanti alawiti, quanti sunniti lo Stato Islamico uccide ogni giorno in Siria, in Iraq? E dove sta la tua fratellanza, eh? 2 marzo, 140 giorni prima della bomba. Io amo coloro che non sanno vivere se non per tramontare, perché sono coloro che passano dall'altra parte. Lo sai che ti guarda, è da un po' che ti tiene d'occhio. È sempre solo, non si mischia mai agli altri. Eppure, è come se cercasse te. Allahu Akbar! Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Sono Karim. Io Ibrahim. Italiano anche tu, vero? Sì. Prossima fermata, Repubblica. Next stop, Repubblica. Da quanto ti sei convertito tu? 4 mesi. E tu? 2 anni. Un cammino tortuoso il mio per tornare ad Allah subhanahu wa ta'ala. Perché ti sei convertito tu? È un fatto un po' personale. Tu non ti fidi. E tu perché ti sei convertito? Le Nike, l'iPhone, la macchina nuova, la settimana a Ibiza, la sbronza il venerdì sera, la scopata in discoteca. Hai capito, no? No. Io non credevo in Dio. Io ero solo un prodotto dell'Occidente. Io ero un prodotto, come la Coca-Cola, con lo stesso gas. Ero il cancro. Ero la vita in decomposizione. Io, solo io, come tutti gli altri. Non conoscevo Allah subhanahu wa ta'ala. E poi cos'è successo? Apertura porte lato destro. Doors open on the right. Una notte. Nell'ultimo terzo della notte. Allah subhanahu wa ta'ala mi ha parlato. E ho capito. Quella era l'unica strada. Allah ti ha parlato. E con quali parole? Senza parole. È stato un attimo. E tutto era chiaro. In un attimo la vita cambia. In un attimo si impara. E in quell'attimo ho capito che c'era solo una strada. E che io ero il mezzo. Il mezzo. Per riportare tutti i musulmani sulla strada giusta. E come? Con l'esempio. L'esempio dei convertiti. Noi non possiamo vivere come tutti gli arabi corrotti dall'Occidente. Se no non ci convertivamo. È vero. Tieni. Lo Stato Islamico. Una realtà che ti vorrebbe comunicare. Leggilo. Va bene. Noi ci capiamo. Io e te. Ora me lo dici perché ti sei convertito tu. Aspetta. Facciamo un video. Per tutti i fratelli. Facciamo un video. Illumina la gente. Ti va? Tuoi genitori? Mia madre insegna inglese. E tuo padre? Non l'ho mai conosciuto. Perché? Così. È morto? No, senti, facciamo il video. Sei pronto? Perché ti sei convertito? Io avevo un amico e... ti sei avvicinato ad Allah subhanahu wa ta'ala. Tu prima hai detto che hai sentito una chiamata da parte di Allah, giusto? Sì. Beh, anch'io ho sentito la mia chiamata. Com'è stata? Un suono, un telefono che squillava libero nella mia testa. Tu. Un mio amico mi ha detto che quella era la mia chiamata. E in effetti aveva ragione. Solo che non sapevo che chiamata fosse. Come sapevi che era la Subhana Watala che ti stava chiamando? Dai boschi. Il bosco è pace. Il bosco è sicurezza. È qualcosa che cambia e non cambia. È una comunità che cresce e rimane sempre unita. Il bosco è vita. Sai, c'è stato un tempo in cui io mi sentivo parte di qualcosa, ma poi quel tempo è morto. E io avevo bisogno del bosco che avevo sempre sognato. Le parole del misericordioso erano quel bosco, il Corano. Il bosco più puro dell'universo. Il bosco più puro dell'universo. Solo nell'Islam possiamo essere qualcosa, tutti insieme. Cosa sei pronto a fare per la Umma? Non lo so. Io voglio essere un buon musulmano. In qualche maniera voglio essere. È bello quello che hai detto prima. Sarà una lunga strada per entrare nel bosco. Lo so. No, non lo sai. Va tutto ricostruito. Per esempio, questi poster, perché ce li hai? Ce li ho da sempre. Li devi togliere. Perché? Perché sono idoli. Idoli? Sì, idoli. Gli idoli ti sviano, ti portano su una cattiva strada. Dai, strappali. Bruciami. Da quanto non ti siedi di fronte a un fuoco? Da quanto non campi attorno a un fuoco? Da quanto non abbracci qualcuno attorno a un fuoco? Perché? Perché? Perché? 20 febbraio, 150 giorni prima della bomba. Che cosa è buono? Tutto ciò che nell'uomo accresce il senso di potenza, la volontà di potenza e la potenza stessa. Sporchi musulmani! Qualcuno urla alle nostre spalle mentre io e Ahmed usciamo dalla moschea. Ci voltiamo e dal buio vediamo due nazi venirci incontro. Io mi precipito verso il semaforo. Ahmed si volta, torna indietro e si infila nel cortile della moschea. Io continuo a correre, ma i due nazi mi sono dietro. In strada non c'è nessuno. L'asfalto è illuminato solo dalla luce dei lampioni. Tutto attorno c'è il buio. Il buio, come se non esistesse nulla. Inciampo, cado e i due nazi mi sono sopra. Vedo partire una spranga, mi chiudo al riccio e sento un colpo forte alla schiena, ma non sento dolore. Poi un altro colpo alle gambe, ma questa volta non succede nulla. Sento dei passi che si avvicinano. Sento il suono sordo di un corpo che cade. Ahmed ha sbattuto a terra uno dei due nazi. Io mi rialzo e con una rabbia che non avevo mai provato prima, mi scaglio verso l'altro. Italiano di merda! E gli tiro una testata in pancia. Ora, dal buio più buio che circonda la moschea, si vedono i lampi della polizia che si avvicina e i due nazi se ne vanno. Matteo, stai bene? Cosa? Ahmed, stai bene? Sì, sì, io sto bene. Tu? Tu? Documenti, prego. Davide Greco, a lei? No, mi chiamo Ibrahim. E qui c'è scritto Davide Greco. No, mi chiamo Ibrahim. Davide, ti chiami Davide? 18 gennaio, 182 giorni prima della bomba. Davide è morto. Chi è della mia specie farà esperienze della mia specie, di modo che i suoi primi compagni debbano essere cadaveri e pagliacci. Non le voglio sentire queste parole. E dai, ma non esagerare, soltanto un nome. Che differenza fa Davide, Ibrahim? That which we call a rose by any other name would smell it sweet. Quello che noi chiamiamo rosa... Non citarmi Shakespeare. Ma tu lo citi sempre. Non fare il furbo con me. Ascolta, mamma, io non ti ho mai chiamato Paola, giusto? Sempre mamma. Eppure tu sei tu. Anche se per me non sei mai stata Paola. Davide, questa cosa della conversione è ridicola. Cosa c'entri tu con l'Islam? Spiegamelo. Ma tu vorresti come prima? Sì. Cioè solo perso, depresso, chiuso in camera a piangere tutto il giorno. Mi vorresti come quando non ti aprivo la porta e mi dovevi pregare per mangiare. Oppure mi vorresti come tutti gli altri ragazzi della mia età. Magari. Cioè uno che vive solo per uscire il venerdì sera, ubriacarsi, rimorchiare, contare le scopate fatte per raccontarle agli amici. Ma non ti rendi conto che io adesso sono felice? Non puoi essere felice nell'Islam. Mamma, smettila. Tu non ne sai niente di Islam. Hai letto tre cose in internet e pensi sia quello. Ma in realtà non sei libero. In nessuna religione puoi essere libero. Dio non esiste. Dio è solo una costrizione, una limitazione del pensiero umano. Dio è un concetto con cui misuriamo la nostra sofferenza, la tua sofferenza. Guardami. Dai, avanti, guardami. Ma non vedi? C'è una luce nei miei occhi che prima non c'era. Io mi sveglio all'alba per pregare. Mi sveglio, mi guardo allo specchio e vedo che i miei occhi brillano come mai hanno brillato prima. Io prego e mi sembra di volare. Non sono mai stato così bene in vita mia. Ascolta. Ascolta. Cerco rifugio presso il Signore degli esseri umani, Dio degli esseri umani, Re degli esseri umani, contro il male che si insinua nell'animo delle creature. È bello. Fidati di me, mamma. Stammi accanto. E apri anche tu il tuo cuore da là. Guarda, se proprio vuoi, Ibrahim, ti ci chiamo, ma non chiedermi di convertirmi. Ma non vuoi neanche vedere come si prega? E fammi vedere come si prega, dai. Allora, per prima cosa ci si mette i piedi verso la Qibla, cioè in direzione della Mecca, e si fa la shahada. La shahada, Davide, Ibrahim, va bene. Ma guarda che la Mecca non è lì. Stai pregando verso gli Stati Uniti. Certo che tu non sei proprio un cazzo, eh? È sempre a sud-est. E se non sai dov'è il sud-est, è dove sorge il sole. E se non sai dove sorge il sole, Steve Jobs ha messo una bussola in tutti gli iPhone per noi musulmani. Yusuf, posso chiederti come ti chiamavi prima? Francesco. E come mai ti sei convertito? E prima di diventare musulmano sono stato buddista, Hare Krishna, poi sono tornato cattolico e poi ho conosciuto un ragazzo siriano che stava in una tariqa. Beh, la tariqa è la confraternita Sufi. Sufi? Il sufismo è l'aspetto mistico dell'Islam. Sì, insomma, un giorno questo amico siriano mi porta nella sua tariqa. e ho sentito subito qualcosa di molto forte. Tipo una chiamata? No. No, nessuna chiamata. Più che altro una specie di illuminazione. Ma che differenza c'è tra sufismo e Islam? Beh, il sufismo è la via dell'amore per Allah e nell'amore si vede tutto con più lucidità. Fermo. Non puoi soffiare su una bevanda calda. Cazzo di ieri, perché? È un hadith del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Se qualcuno di voi beve, che non respiri dentro al bicchiere. È una delle tante regole che non servono a niente. E non è vero. In una società in cui sulla carta puoi fare tutto, in realtà non puoi fare niente. Quella libertà è solo un'illusione. Nelle regole musulmane invece ci si sente più liberi. E così, oltre a pregare 5 volte al giorno, fare la shahada, la zakat, digiunare nel mese di Ramadan e recarsi almeno una volta nella vita alla Mecca, un buon musulmano deve indossare il tuab, farsi crescere la barba, mangiare con la mano destra e pulirsi il culo con la sinistra, non può bere alcol, non può mangiare il maiale. E tante, tante altre cose. E voi seguite tutte queste regole? Sei matto, io credo, io prego perché ci credo, ma se dovessi stare attento a tutte le regole diventerei pazzo. Io invece ci sto attento. Cerco di seguire l'esempio del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma bisogna stare attenti a non chiudersi nel nome della sunna, la tradizione. Noi convertiti europei siamo un ponte tra Oriente e Occidente. Possiamo portare in Europa una lettura mistica del Corano, non quella dei salafiti. Che è la corrente integralista dell'Islam. Prendi la shahada, per esempio. Qui in Europa viene tradotta come non c'è altro Dio al di fuori di Allah. Ma Allah in arabo non è il nome di Dio. Allah in arabo significa il Dio, per cui per noi la shahada significa non c'è Dio al di fuori di Dio, cioè non c'è nulla di più divino, di eterno, di assoluto, se non Dio stesso. Tutto il resto è relativo, caduco, mortale, come noi uomini. Solo Dio è assoluto. Come per Allahu Akbar, che non significa Allah è grande o Allah è il più grande, ma significa Dio è più grande di ogni uomo e delle sue preoccupazioni. Più grande dei nostri pensieri, della nostra agitazione, delle nostre piccole vite. Più grande di tutte le effimere cose umane. 9 dicembre, 213 giorni prima della bomba. Noi abbiamo scoperto la felicità, noi sappiamo la strada, noi trovammo la vita fuori da interi millenni di labirinto. Ciao. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Si risponde alaikum salam. Alaikum assalam. Sei un convertito? Sì, è da poco. Si vede. Sono Ahmed. Piacere, Davide. Vieni. Dove? Prima volta in moschea, vero? Dai, vieni. Inizia la preghiera. Devi mettere il tuo piede accanto al mio. Spalla contro spalla. Lo stesso con chi ti sta dall'altra parte. Dobbiamo essere una cosa sola. Non preoccuparti di sbagliare. Porta le mani alle orecchie. Allahu Akbar. Porta le mani all'addome. Mano destra sul polso sinistro. Piegati in avanti. Schiena dritta, mani sulle ginocchia. Su. Punta dei piedi, le ginocchia, le mani e la parte di testa che va dal naso alla fronte. Non i gomiti. Per qualche istante che ti sembra infinito, stare tra questi uomini che si muovono tutti insieme, che sentono qualcosa tutti insieme, che pregano tutti insieme, ti fa sentire parte di qualcosa di grande, di vero, di eterno, di importante. Ti fa sentire nel bosco. I tuoi rami che toccano altri rami. Vorresti piangere mentre rimani con la fronte a terra. Subhana rabbihal la wabihamdi. Subhana rabbihal la wabihamdi. Subhana rabbihal la wabihamdi. Ora voltiamo la testa a destra e diciamo assalamu alaikum warahmatullah. Ora a sinistra Assalamu alaikum wa rahmatullah. Che cosa significa? Che la pace e la misericordia di Allah siano su di voi. Non ce la farò mai. Ma sì che ce la farai, inshallah. E poi se preghiamo insieme impari più in fretta. Davvero possiamo pregare insieme? Ma certo, anche a casa mia. E il tuo non darebbe fastidio? Ma no, tanto i miei non ci sono mai. Perché? Che lavoro fanno? Beh, hanno una pizzeria. Lavorano di sera. E tu? Non lavori? Beh, io faccio giurisprudenza. Però ogni tanto la sera gli do una mano. Ma di dove sei? Sei curioso, eh? Scusa. Beh, comunque sono italiano. No, dicevo di dove sei. Ho veramente. Ho capito cosa dicevi. Io sono nato qui, ma i miei genitori sono egiziani. Va bene così? Allora? Hai pensato a un nome? Cioè? Ora che ti sei convertito, devi sceglierti un nome arabo. È la tradizione. Non so, a te che nome piace? Ibrahim. Mi è sempre piaciuto. Mi sembra bello. Significa qualcosa. È il nome di un profeta, Abramo. Il messaggero di Dio, Ibrahim. Ti chiamavi Davide, da ora ti chiami Ibrahim. Novembre, 237 giorni prima della bomba. Io sono un parapetto presso la corrente. Mi afferri chi mi può afferrare. Leggo il Corano in internet. Lo leggo all'alba appena mi sveglio. Benedetto sii tu, Signore del mondo, creatore dell'universo. Guidaci sulla retta via. Benedetto sii tu nel libro. Benedetto sii tu, sovrano del giorno e della notte. Benedetto nell'ombra e nel dolore. Benedetto nella pace e nel silenzio. Benedetto nell'idea e nell'emozione. Benedetto nell'atto e nell'essenza. Benedetto sii tu, Signore, che erici il cielo nell'oscurità. Lo leggo per tutto il giorno, fino a notte fonda. C'è sempre un numero che appare su ogni pagina. Ti vuoi convertire? Chiamaci. Assalamu alaikum. Pronto? Sì, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ti pure, fratello. Ho letto il numero su internet. Come funziona per la conversione? Per tornare ad Allah subhanahu wa ta'ala devi fare la shahada con un fratello a testimone. La puoi fare in moschea o anche a casa. Su internet ho letto che posso farla per telefono. Sì, con me. Posso essere io il tuo testimone. Ma devi essere pronto, devi essere convinto. Con il cuore puro e la mente senza corruzione. Credo di essere pronto. Bene, come ti chiami? Davide Greco. Bene, Davide. Se il tuo cuore è davvero pronto per accogliere Allah subhanahu wa ta'ala, lo deve essere anche il corpo. Devi fare il voodoo. Che cosa? Le abluzioni. Lavati le mani per 3 volte. Prima la destra, poi la sinistra. Poi sciacquati naso e bocca per 3 volte. E lavati la faccia, dalla fronte fino al mento. Ora ti passi le mani umide sui capelli. Poi infili l'indice nelle orecchie e il pollice lo fai scorrere dietro. Quindi ti lavi le braccia fino al gomito e i piedi fino al tallone per 3 volte, sempre prima a destra, poi a sinistra. Sei qui in bagno ed è questo il momento. E questo è il momento di diventare un albero, di tornare nel bosco. Non sei mai stato così in pace. Non sei mai stato così sicuro di qualcosa. Sono pronto. Sei davvero pronto? Sì, lo sono. Bene, ora devi dire la shahada. Lo conosci il significato? Sì. Non esiste altro Dio all'infuori di Allah. E Maometto è il suo profeta. 3 novembre, 249 giorni prima della bomba. Quel che è grande nell'uomo è che egli è un ponte e non una meta. Davide, aprimi. Davide, è pronta la cena. Vieni a tavola, per favore. Forza, esci da questa stanza. Sono 3 giorni che sei chiuso lì dentro. Mi senti? Parlami, dimmi qualcosa. Lo so che è difficile, ma parla con me. E dai, ma piantala. Voglio dormire un altro po'. Che devo fare? Devo sfondare la porta per tirarti fuori da questa stanza. Guarda che lo faccio. Mamma, non esagerare. Non sto tanto bene. Lasciami qualcosa da mangiare. Vengo più tardi. Che faccio? T'aspetto. No, no. Mangia. Ma lasciami qualcosa. Moglie trago. Get your knee in the home of the Chiara, perdonami, sono perso. Non so quello che faccio, non so che cosa ho fatto. Da quando Matteo... Chiara, io ti chiamo e tu non mi rispondi. Per favore, rispondimi. Sono perso senza di te, senza Matteo. Non riesco a pensare ad altro. Non riesco a capire perché, non riesco a trovare un senso. Vorrei soltanto morire e tu non mi rispondi. Ma perché non mi rispondi? Vorrei poter tornare indietro. Vorrei non aver detto le cose che ho detto. Vorrei non aver perso anche te. Vorrei poter tornare indietro a quella notte. Non riesco, non faccio altro che vivere quella notte. E vorrei poterti parlare. Vorrei poterti spiegare. Vorrei che tu capissi. Ma poi ti rivedo. E mi rendo conto che tu non mi hai mai capito. O forse sono io che non ho mai capito te. È stato tutto inutile. È tutto inutile. Non serve a niente parlare. Con nessuno. Sono solo. Cosa farai adesso? E ora? Che cosa farai? E domani? E il giorno dopo? E quello dopo ancora? Non c'è soluzione. Aspetta, devi solo aspettare. Aspettare che si sciolgano nello stomaco. Aspettare che si sciolgano nel sangue. Aspettare che si sciolgano nel cervello, nel tuo cuore. Aspettare che non batta più. Ce la fai ad aspettare. Ce la fai ad aspettare. Ce la fai ad aspettare. Sento una strana stanchezza che se ne va, che si allontana, come se tutto fosse più distante. Vedo il computer aperto accanto a me. Lo prendo e vado sul profilo Facebook di Chiara. Voglio vedere che cosa posta, voglio vedere che cosa scrive. Ma invece di navigarci, finisco su un banner piccolo e quadrato sulla destra, rosso scarlatto. Non so perché, ma ci clicco. E mi si apre una nuova pagina. Anche questa rossa scarlatta. Con delle scritte dorate. In arabo e in italiano. È lontano. È bello. È dolce. È antico. È qualcosa che non conosci. È qualcosa che conosci. È la leggerezza. È un'onda del mare. È la morbidezza. È l'Oriente. Non vedi come Allah propone in parabola una buona parola, simile a un bell'albero, la cui radice è salda e i rami sono nel cielo. Sura 113, Al-Falaq, l'alba, rivelata alla Mecca. Cerco rifugio presso il Signore dell'alba, contro il male di colui che gli ha creato, contro il male dell'oscurità quando sopraggiunge, contro il male di chi soffia sui nodi, contro il male dell'invidioso quando invidia. Cerco rifugio presso il Signore dell'alba, contro il male di colui che gli ha creato, contro il male dell'oscurità quando sopraggiunge, contro il male di chi soffia sui nodi, contro il male dell'invidioso quando invidia. Trentuno ottobre, 252 giorni prima della bomba. Tu non sopportasti chi ti vedeva, chi ti vedeva in ogni istante, da parte a parte, o più brutto tra gli uomini. Davide, sono 10 giorni che non fai più niente. Non vuoi uscire, non mi chiami, non studi. Ora però devi reagire. Reagire? Sì, reagire. La vita va avanti, la tua vita deve andare avanti. Hai saltato un esame, va bene, ma ora ti devi preparare per il prossimo. Hai ancora tempo, io ti voglio aiutare. Ho ancora tempo. È solo una questione di tempo, no? Cioè? Il tempo per fare un esame, che non è il tempo per venire a un funerale. Dai, per favore, ancora con questa storia. Il tempo per ricominciare a studiare, il tempo per uscire con te, il tempo di sentire gli amici, che non è il tempo per rimanere solo a cercare di capire quello che mi sta succedendo. Non può essere il tempo per sentire un vuoto. Non ti capisco. Non importa. Forse lascio l'università. E perché, cosa vuoi fare? Non lo so che cazzo voglio fare, Chiara. Io lo so che per te lo studio è tutto. Tu ti impegni, dai il massimo, sei ambiziosa, ma per me è diverso. Guardami. Io non riesco a non pensare a quello che mi ha detto Matteo. E lo so, io lo sento che aveva ragione. Devo trovare la mia strada, devo cambiare il mondo. Ma non so ancora come. Potrei partire per l'Africa. Davide, per favore ragiona. Non puoi andare in Africa solo perché ci voleva andare Matteo. Tanto è inutile parlare con te. E invece devi parlare con me, perché io ti posso aiutare. Forse sono l'unica che ti può aiutare. Io non sono una tua nemica, lo capisci questo? Lo capisci che ti voglio bene? Sì. Non puoi più perdere tempo, dammi retta, devi crescere. Io non voglio stare con un ragazzo inconcludente. Inconcludente? Ma tu chi cazzo sei? Non siamo tutti come te, Chiara! Io non parlo come parli tu, non penso quello che pensi tu, non sogno quello che sogni tu. E sai una cosa? Sono contento di essere diverso, perché io ogni tanto ti guardo e mi sembri una stronza. Non parlarmi così! Io ti parlo come mi pare! Davide, tu non capisci proprio niente, con te è solo tempo perso! Ma vaffanculo! Faccio tu! 22 ottobre, 252 giorni prima della bomba. Nessun pastore è un solo gregge. Ognuno vuole la stessa cosa. Ognuno è uguale. Non ha senso. Non c'è un senso, vi direte voi. Perché lui? Perché Mattia? Perché così giovane? La sofferenza, la perdita, il senso di vuoto che tutti sentiamo non può essere colmato dalle mie parole. Non esistono parole per lenire il dolore che tutti sentiamo. Dovremmo chiuderci al mondo, chiuderci alla vita, isolarci da tutto per poter sentire il nostro dolore. Ma è questo quello che Mattia vorrebbe per noi? Siamo certi che non vorrebbe altro Mattia per i suoi cari. Matteo, si chiamava Matteo. In un giorno d'inverno, un padre del deserto chiese a un albero vecchio, nero e rinsecchito: parlami di Dio. A quelle parole l'albero fiorì. Ecco, ora il nostro Mattia è come quel vecchio albero, ora è al cospetto di nostro Signore e sta fiorendo, sta brillando, sta nascendo ancora. Di fronte al Signore si rinasce, accanto al Signore che ci portiamo nel cuore Mattia non morirà. È questo quello che dobbiamo pensare, quello che ci può consolare. Mattia, nel nostro cuore, non morirà mai. Basta, sono Sono stufo di sentire certe cose. Perché non sei venuto al funerale? Eccomi, è già finito? Per me è finito e tu non c'eri. Scusami, ero all'università, lo sai che avevo un esame, ho fatto prima che ho potuto. Ma chi se ne frega del tuo esame? Davide, per favore, calmati, ora sono qui. Ora è tardi! Perché mi parli così? Perché tu non ci sei mai! Non ci sei mai! 18 ottobre, 265 giorni prima della bomba. Chi sente in modo diverso entra spontaneamente in un manicomio. Insomma, abbiamo chattato per due giorni e poi ci siamo visti. Non potete capire che pezzo di figlio. Cosa c'hai fatto? Cosa deve averci fatto? Usa un po' di immaginazione, no? No, no, no, voglio sapere tutto dei minimi particolari. Beh, all'inizio faceva un po' la saltarellina, no? Stava tutta sulle sue. Anzi, pensavo che era una di quelle che non te la danno subito. E poi? E l'ho fatta bene. Dove siete stati? In macchina al parcheggio della metro. Che fantasia! E poi? E poi niente, stava così fuori che sembrava una satanata. Siete patetici. Matteo, non ricominciare. Siete voi che avete ricominciato. Matteo, che palle. La satanata. Ma vi sentite quando parlate? L'hai dovuta pure far bere, perché sennò non ci combinavi niente. Matteo, di che cosa vuoi parlare? Dell'Africa? Dei ragazzetti negri con le braccia secche e la panza gonfia? Di quelli che schiattano per l'Ebola? Della cooperazione? Matte, è il mio compleanno, cazzo. Divertiamoci, no? Tra una settimana te ne vai in Mali. E là è meglio che non l'avvicini una figa, se non ti vuoi beccare l'AIDS. Senti Paolo, io non voglio parlare dell'Africa, non voglio parlare dell'Ebola o della fame nel mondo. Dico solo che questi discorsi di te che incontri una in chat, la fai ubriacare e te lo fai succhiare nel parcheggio della metropolitana mi mettono tristezza. Tu non gli dici niente? Io cosa devo dire? Io non ne so niente di Africa. Poi se Chiara mi sente parlare di assatenate che fanno pompini nel parcheggio della metropolitana mi fa un culo così. Hai trovato una che ti mette proprio sotto, eh? Ah, sei qui! Dai, vieni a parlare con me. E che non riesci a lasciarti andare. E che non ti piace la musica. Che c'è troppa gente e che per ballare devi uscire da te stesso. Quello che ti piace è che è buio, buio come in un bosco. E allora via da questa città, via da questo quartiere, via da questa casa. E su, tra i rami di un albero a primavera, su tra il verde che profuma di verde, su tra la luce gialla che filtra tra le foglie. Lascia salire le braccia. Sempre più in alto, lasciare diventare rami, verso la cima, verso il sole. E le gambe come tronchi, e i piedi radici. Balla come un albero che cresce e non si smuove. Cresce e gode. Gode degli altri alberi attorno a lui. Non è solo, non sarà mai solo. Chiudi gli occhi. Che fai? Ti bacio. Lo sai che non mi piace davanti a tutti. You said that you were with me. You said you were my friend. Did you really love the city? Or did you just pretend? You said you loved her secrets and her freedom hid away. She was better than a man. Sei voluto andare? Così. Cos'è successo? Niente, mi stavo annoiando. Tu volevi rimanere? No. E poi anch'io sono stanco. Stamattina mi sono svegliato alle 6. Perché? Cosa dovevi fare? Ma niente. È che mi è svegliato un rumore. Che rumore? La cornetta di un telefono che suonava libero. Tu, tu, tu, tu. Un po' distante. Sembrava venire dai vicini, ma non riuscivo a capire da dove venisse. Tu, tu, tu, tu, senza mai interrompersi. Non sono riuscito a riaddormentarmi. Cazzo, anch'io sono stato svegliato dallo stesso rumore. Tu, tu, tu, tu. A che ora? Alle 6, come te. Di coincidenza. Non è una coincidenza. È una chiamata. Un telefono che suona libero è una chiamata. Sul serio, Davide, io e te che sentiamo lo stesso suono a chilometri di distanza e alla stessa ora. Non è un caso o una coincidenza. Vuol dire qualcosa. È una chiamata. Sì, da parte di Dio. Ma Dio non c'entra. Io so qual è la mia chiamata. Qual è la tua? Io lo so perché ho deciso di partire per il Mali. Ah, ancora questo Mali. Non mi convinci, non ci vengo a fare volontariato con te. Ma io non voglio mica convincerti. Non devi venire a fare volontariato per forza. Cioè? Beh, io parto per l'Africa perché non mi piace questa città. Non mi piace questo paese, non mi piace il mondo in cui viviamo. Mi fa schifo. È egoista, me ne freghista e io non ci sto. Questa è la mia chiamata. Fare qualcosa per cambiare un mondo ingiusto. Trovare la mia strada, combattere, lottare. Non sto scherzando, eh. Lo so. E se anche tu hai sentito questo suono, vuol dire che io e te siamo uguali. E lo sai anche tu. Vuol dire che anche tu devi lottare. Anche tu non ti devi arrendere. E che cosa dovrei fare? Ah, questo non lo so. Lo devi scoprire tu. Però promettimi che lo farai. Te lo prometto. Davvero, Davide. Fa qualcosa. La vita appartiene ai vivi. E chi vive si deve preparare al cambiamento. No, no! Ma che ti piace? No, lasciami! No, lasciatela stare! Non sono cazzi tuoi, la mia ragazza. Ha detto che non vuole. Cosa ne sai tu di quello che vuole questa? Stai bene. Te ne devi andare, hai capito? Ma te, io chiamo la polizia. No, tu non chiami nessuno. Ti accompagno io se vuoi. Non porti da nessuna parte. Mai niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e ogni sospiro e ogni indicibilmente piccola e grande cosa dovrà fare ritorno a te e tutte nella stessa sequenza e successione. È una settimana che ci stiamo in fissa io e Davide, qui sdraiati sul tappeto della sua stanza. Tutti i pomeriggi alla PlayStation, a sorvolare una città araba, case in fumo, macchine rovesciate. Io e Davide siamo due marine e abbiamo un obiettivo, uccidere Al-Farid, il dittatore del Medio Oriente. Chi lo uccide per primo ha vinto. Oh, ma ormai io ci gioco più per abitudine, questi videogame non mi divertono più, però mi diverte perdere tempo con Davide. Questo mi ha sempre divertito. E oggi pomeriggio sto vincendo io. Lo posso vedere nello schermo diviso in due. Entro nel palazzo della TV e dei guerriglieri con la testa fasciata da keffie rosse mi vengono incontro. Devo stare attento a non farmi colpire. A Davide invece sfugge il joystick. No, cazzo! T'hanno colpito, eh? Io raggiungo la stanza dell'obiettivo, mentre Davide spara a tutti gli arabi che gli vanno incontro, nella speranza di raggiungerli. Muori, bastardo! Nella stanza, però, non c'è nessuno. Solo il marin di Davide che mi raggiunge. L'hai colpito? No, era una falsa pista. Comunque, non ho capito perché dobbiamo fare sempre gli americani. Cioè? Beh, sarebbe più figo scegliere da che parte stare, no? Vorresti fare il dittatore arabo? No, non è detto che voglia fare sempre l'americano. Noi giochiamo, intanto questi ci raccontano una storia. E la storia è che noi siamo qui a sparare ai nostri nemici. E la stessa cosa vale se al posto degli arabi ci mettono i cinesi, i russi o gli afghani. Ma te, è solo un gioco. No, no, non è solo un gioco. Dai, su, adesso piantala e gioca. Ti ricordi quando tuo padre ci portava la domenica nei boschi? Com'è che ti è venuto in mente? È passato un sacco di tempo. Non lo so, così mi è venuto in mente. Però era bello. Tutto quel verde, tutto quel silenzio. Tu non volevi mai tornare a casa. E tu dicevi che ci saremmo costruiti una casa sull'albero. Beh, sarebbe stato figo, no? Torniamoci, io e te, nei boschi. Ci andiamo quando torno? No, no, no, no. Andiamoci prima, è meglio. Ora gli elicotteri sorvolano il deserto. Al-Farid è in fuga su un treno. Noi dobbiamo intercettarlo e farlo saltare in aria. Gli elicotteri avanzano veloci. Sorvolano i vagoni dall'alto. Davide spara, ma lo manca. Anche io sparo senza colpirlo. Un secondo tentativo, poi un terzo. E alla fine è Davide a colpirlo. Il treno esplode in una colonna di fumo. L'ho fatto saltare in aria io stavolta, cazzo, t'ho fregato. Io gli sorrido e Davide mi abbraccia. Forte. Mi stringe, come se questa fosse la fine. Io fisso lo schermo riempito dalle fiamme dell'esplosione. Solo fuoco, solo fiamme. Tutto diventa fuoco e fiamme. E per un attimo dimentichi tutto. Dimentichi gli esami all'università. Dimentichi i problemi con Chiara. Dimentichi gli alberi. Dimentichi il bosco. Dimentichi tutte le cose brutte e tutte le cose belle. Dimentico gioie e sofferenze. Dimentico chi sono. E che svaniscano spada e carestia. Morte e cattiveria si allontanino da noi. Scenda una grande pace dal cielo. E vita buona su di noi. E vita buona su di noi.